Cartellone di Elisabetta Fiorito. Le donne ci insegnano, signori. La natura femminile singolare, la terra femminile singolare, l'acqua, l'aria femminile singolare, la fame, la sete, la solidarietà, l'amicizia, la maternità femminile singolare, la paternità femminile, talvolta plurale e arene. E la gioia. Buongiorno, buongiorno, e con questo brano tratto dalla commedia di Candido che noi iniziamo Cartellone, la commedia di Candido di Stefano Massini, con la regia di Sergio Fantoni, ma soprattutto con l'interpretazione di una delle grandissime attrici italiane, Ottavia Piccolo. Buongiorno Ottavia Piccolo. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Però quella voce non era la mia. Beh, no, no, era Vittorio Viviani. No, perché dopo uno dice accidenti, che voce strana che gli è venuta la Piccolo. No, no, l'abbiamo capito. Allora, parliamo della commedia di Candido. Infatti, sì. Per quale motivo? Perché lei interpreta Agustin, che è una gran donna, che si dimena con tre piccoli personaggi insignificanti dal nome di Rousseau, Diderot e Voltaire. E anche D'Alembert. Ah, pure. Sì, sì, ci passa anche D'Alembert. Sì, sì, la ragazza si... insomma... ha a che fare con questi nometti, ecco, che però è vero che sono dei grandi nomi, ma forse, come li ha raccontati Stefano Massini, sono poi degli omuncoli, perché in fondo facciamo vedere i loro difetti, le invidie, i rancori, insomma le piccolezze, non soltanto le loro grandi idee, che quelle non gliele toglie nessuno. Quindi insomma questi tre personaggi girano attorno alla nostra Augustine, e poi noi sappiamo che Voltaire sta scrivendo un'opera, anche lì una piccola opera insomma, che si chiama Candido. Una piccola opera, sì, che si chiama Candido, di cui tutti parlano. Ma nessuno ne sa niente e tutti se ne interessano, quindi se ne interessa la chiesa, la casta militare, tutti vogliono sapere perché sono preoccupati, perché conoscendo il tipo Voltaire scriveva sempre delle cose molto caustiche, e quindi questo Candido si profila come una bomba praticamente, e allora tutti vogliono sapere, e allora Augustin, al soldo di Diderot, che è geloso e ha paura che Voltaire parli male di lui, si introduce in casa prima di Rousseau e poi di Voltaire per sapere che cos'è questo Candido, e alla fine, con uno stratagemma che insomma molto divertente che Massini inventa, aiuta Voltaire a non avere problemi con le autorità, consigliando Voltaire di pubblicare il Candido senza nome, come autore ignoto, cosa che realmente successe nel 1759. Voltaire fa pubblicare il Candido senza il suo nome, insomma, anche se tutti sapevano che era il suo, però per non incorrere nelle maglie della censura fece questo. Allora Massini si inventa sta cosa, ecco. Insomma, molto divertente. Sentiamo un altro brano, così poi lo commentiamo insieme. Hai perso qualcosa, ragazzina? Non mi merito nulla? Ma certo, ma che cos'ho in testa? Vieni. Merci, madame. Senti, tu sei la sua cameriera personale di lui? Oh sì, da quando sono qui, madame. Bene, la vuoi un'altra moneta? Merci, madame. Dimmi, è vero che il tuo padrone sta scrivendo un libro? Oh sì, che vero. Ma il segreto? Ah. Ecco. Si chiama Candido. Ma questo lo so già. Ah, ecco. Allora, Ottavia Piccolo, vediamo che addirittura ha la R moscia. Eh sì, perché essendo un'attrice, una ex attrice, questa poveretta di Augustin, si inventa dei personaggi per appunto inserirsi nelle varie case, però per esempio per fare questa nobildonna fa una nobildonna pseudo francese, insomma, ecco, siccome è una commedia, anche se noi sappiamo si svolge in Francia, ma è tutta un'invenzione, giochiamo molto sulla cosa della commedia la più, insomma, tranquilla, ecco. Ma lei, che è abituata a fare dei ruoli drammatici, è conosciuta come un'attrice drammatica, si è divertita finalmente in un ruolo comico? Sì, infatti mi sono divertita moltissimo, però cioè, non è la prima volta, ho fatto anche altre cose, ma diciamo che questa volta sono abbastanza scatenata. Mi diverto tantissimo, ma poi vicino a Vittorio Viviani, che è un attore che sa fare benissimo anche le cose drammatiche. Quanti personaggi ci sono in scena? Perché... Allora, in scena ci sono, siamo 7, però i personaggi sono tantissimi, perché Vittorio Viviani interpreta i 3 filosofi, cioè Rousseau, Diderot e Voltaire. Quindi una persona interpreta una 3 persona personaggi. Poi Natalia Magni interpreta le 3 compagne dei filosofi, e quindi sono altri 3. Poi c'è Massimo Zordan che fa D'Alembert e il gesuita, e poi c'è Alessandro Pazzi che fa il luogotenente, e Francesca Farcomeni, che è quella che abbiamo sentito, che fa Yvette, una cameriera, e oddio, come si chiama? Desiree Giorgetti, che fa l'altra cameriera ancora, e anche loro è molto divertente perché Massini ha inventato un meccanismo divertente, anche loro vogliono sapere che c'è scritto sul Candido, rubano fogli a Voltaire intanto che scrive, perché loro in realtà vogliono sapere come va a finire la storia d'amore. Ecco, allora per una questione, diciamo così, tipo di feuilleton, di romanzo d'appendice. Esatto. Loro in quel modo, il gesuita vuole sapere perché sa che parla male della Chiesa, il militare perché sa che parla male della guerra, e gli altri filosofi perché sa che parla male di loro, e quindi tutti vogliono sapere che cosa succede in Candido. Come un giallo editoriale, insomma, una sorta di spy story antelittera. È una spy story, bravissima, una spy story filosofica. Allora, ricordiamo la splendida Ottavia Piccolo in un ruolo finalmente comico, come sì, ci ha confessato. Finalmente si ride, però Voltaire diceva non c'è miglior modo che parlare delle cose serie sorridendo, quindi noi abbiamo scelto questo suo motto per questo spettacolo. La commedia di Candido in un testo di Stefano Massini che, come ci ha descritto Ottavia Piccolo, si preannuncia molto molto particolare, al Teatro Manzoni di Roma fino al 21 febbraio, poi sarete a Messina e poi a Milano dal 10 marzo. La commedia di Candido con Ottavia Piccolo. Cartellone. Sigaro, non fumo, la marca di Fidel Castro. Ah, ecco, ha maggior ragione allora, guarda. Amico mio, prepariamoci alla battaglia che ci aspetta. Ma non esageri sempre però, avvocato, non esageri, ma quale battaglia? Questo gioco, non è male, guardi che non è male questo gioco, anzi, io dovrei provare a proporlo mia, al circolo della Cuccaglia ai miei amici, perché in fondo è davvero divertente. Dal punto di vista dell'imputato non sempre, qualche settimana fa abbiamo condannato all'ergastolo un onorevole, ma che solo per merito mio non è finito sulla forca. Sì, certo. Siamo al Teatro Eliseo, prima a Roma di uno spettacolo firmato dal grande Friedrich Dürrenmatt, di Pan con Gianmarco Tognazzi. Buonasera Gianmarco, emozionato per questa prova all'Eliseo di Roma, lo spettacolo è già un anno che va in giro. Appunto, quindi più che emozionato, come è normale che sia, diciamo soprattutto contento di arrivare in un teatro come questo, dove ho già detto, ho visto recitare a teatro per l'ultima volta mio padre, per cui insomma trovarmi nello stesso camerino dove gli ho visto riappropriarsi del suo pubblico con tanto entusiasmo, è chiaro, quello è emozionante, sì. Stasera poi in platea c'è anche Ettore Scola, che fece un film con Alberto Sordi in quello che fu il suo ruolo di stasera, eppure qui c'è una prova, insomma, un regista. No, non mi permetto di mettermi a confronto né con Sordi, tantomeno con Ettore Scola, che è un maestro. Sono orgoglioso che venga a vedere la nostra versione, che poi, essendo una versione teatrale, chiaramente diverge da quello che era un tono più di commedia all'italiana rispetto a un tono grottesco che il teatro si può permettere di avere, e per cui sono molto felice che ci sia e molto orgoglioso. Cosa succede in scena? Lei a un certo punto ha un guasto dell'auto e si ritrova in una casa dove ci sono dei personaggi un po' particolari. È un uomo d'affari a cui va in panne la macchina, chiede ospitalità in una villa in mezzo alle Alpi, che è proprietà di un giudice, di un ex giudice che ama ritrovarsi con i suoi ex compagni di lavoro, e durante queste cene molto, molto abbondanti, dove si beve e si mangia molto, si divertono a ricostruire i processi del passato. Poi, se rimane un ospite, magari gli si chiede di partecipare al gioco, e questo gioco è un processo. Quindi il nostro protagonista, che è un uomo superficiale, un uomo che bada più all'apparenza che all'essere, che è arrivato, pensa, a un posto di rilievo, affronta con grande superficialità tutta questa cosa, che invece tutto questo gioco, soprattutto perché è affascinato dalla nipote del giudice, e a un certo punto inizia a scoprire delle cose di sé che possono essere reali o no, ma sicuramente se ne compiace. Ma in Giuremat non c'è mai un luogo esatto dove avvengono i suoi racconti, cioè è sempre la Svizzera, però la Svizzera è sempre un luogo ideale, e ci sono sempre questi racconti che parlano di giudizi, come il giudice e il suo boia. In che cosa diverge questa panna, e soprattutto qual è la caratteristica del suo personaggio che la colpisce di più? Ma intanto la fortuna che la Svizzera abbia tanti cantoni, per cui si può fare tranquillamente nel cantone italiano, e quindi ecco che il nostro spettacolo può assumere una sua italianizzazione nordica, generica. Quello che mi colpiva del personaggio è questa caratteristica che rivediamo spesso nella nostra società, dove appunto si dà più importanza a come si passa agli altri piuttosto che quello che si è, cioè qual è l'importanza che si dà all'apparenza invece che alla sostanza, quanto pur di rimanere impresso nella mente di qualcuno o l'ego ti possa portare anche a richiedere, come dire, un giudizio assurdo. Meglio passare come un geniale criminale che come un innocente mediocre. Allora, bisogna venire al Teatro Eliseo fino al 14 febbraio di Pan, di Friedrich Dürrenmatt. Come... Sì, attenzione, no, ci tengo a dire che poi quando uno parla di una cosa del genere pensa, oddio, una tragedia. No, fortunatamente il grottesco si muove sul comico e sul drammatico, mescolandoli sapientemente, anche con una certa fantasia, e per cui è uno spettacolo dove fortunatamente la gente si diverte, ma allo stesso tempo il messaggio è anche bello, bello tosto. Di Pan, Gianmarco Dognazzi, fino al 14 febbraio, Teatro Eliseo, poi andrete a Milano, Firenze, Torino, regia di Armando Pugliese. Perché, signori, il nostro amico Alfredo Prats non ha agito in dono indiretto, bensì in dono malo. Perciò, signori, io ho il piacere, come pubblico ministero, qui chiudo la mia ringa, di richiedere la pena di morte per Alfredo Prats come ricompensa per un omicidio che merita ammirazione, meraviglia, rispetto, e che io oserei definire come uno dei delitti più straordinari. Beh, si avvicina Carnevale e noi con la mente, con la fantasia, voliamo fino in Brasile, perché il Carnevale di Rio è sicuramente un evento mondiale, e poi c'è l'estate in Brasile. E qui in Italia? Ma qui in Italia noi il Carnevale l'abbiamo inventato noi, questo è. E già si parte il 31 gennaio, si parte a Viareggio. Perché? Perché saranno, come al solito, protagonisti, personaggi della politica italiana e internazionale, e anche del costume contemporaneo, da Obama a Michael Jackson. Allora, Giovanni Maglione, presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori. Un po' più freddo di quello di delirio, però sicuramente altrettanto divertente. Partite già da domenica fino al 21 febbraio, quindi insomma sì, si va avanti e si prosegue oltre l'inizio della Quaresima. Certo. No, oltre la Quaresima, no, al limite della Quaresima. Al limite, so, qui rischiamo la scomunica. Perché, come si sa, il Carnevale è una festa originariamente pagana e finisce il mercoledì delle ceneri, lì non si, non si scappa. Allora, sento anche dei rumori di sottofondo, questi sono i carri che si preparano alle sfilate? Eh sì, perché tra poche ore, un paio d'ore, c'è l'inaugurazione della manifestazione del Carnevale 2010, che poi domani, domenica, si realizzerà sui viali a mare con i corsi mascherati. Quest'anno carri allegorici particolari? Quest'anno ci saranno per la prima volta in 137 anni di storia del Carnevale di Viareggio, 17 carri allegorici in concorso, 11 di prima categoria e 6 di seconda categoria. Voglio dirle, per dare un esempio metrico, cattedrali di cartapesta alte dai 20 ai 27 metri e con un'apertura da 18 ai 19 metri, cose davvero imponenti, meravigliose per la loro idealizzazione, per la loro capacità di colore, per la loro capacità di espressione. Credo che sia una cosa unica al mondo e da vedere, ripeto, unica al mondo. Perfetto, allora un teatro a cielo aperto, un percorso di 3 chilometri, 11 costruzioni di prima categoria, 6 di seconda categoria, 11 sì. mascherate in gruppo e 9 maschere isolate. È informatissima. Ecco, si parte oggi pomeriggio alle 3, giusto? Alle 3, alle 15. Siamo in fibrille attesa. In fibrillazione, domani anche, a che ora l'appuntamento? Sempre alle 3. Sempre alle 3. Che domani c'è un avvenimento molto importante, perché il nostro sindaco, il dottor Lunardini, darà la cittadinanza onoraria a quel grande artista che si chiama Zucchero. Certo. Questo viene fatto grazie per la riconoscenza, al contributo che il maestro Zucchero in prima persona, muovendosi autonomamente, andando a convincere colleghi di tutto il mondo, ha fatto in occasione di questa estate, nel ricordo triste dell'avvenimento certo. del 29 giugno, il concerto, ha fatto per Viareggio, una cosa certo. stupenda insieme ad altre persone, che hanno portato un contributo economico non indifferente per questa evenienza così grave, così pesante, così ancora aperta come ferita negli animi di tutti i viareggini. Allora, Viareggio cerca di andare avanti, oggi alle 15, domani alle 15 con il conferimento della cittadinanza onoraria a Zucchero. Grazie a Giovanni Maglione, presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio. E adesso parliamo sempre di carnevale, perché quest'anno anche Roma riscopre un po' il carnevale, anzi fa un gemellaggio con Venezia, perché il carnevale romano nel 400, nel 600, ma anche nell'800, appare anche nel Conte di Montecristo, era una festa molto molto importante nella città, e quest'anno questa festa è di nuovo all'attenzione della popolazione romana, con un gemellaggio su Venezia e con un artista che vi partecipa, Angelo Branduardi. Dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò, alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Un'iniziativa, quella lì, di gemellare Roma e Venezia con il carnevale, per quale motivo? Ma per quello che mi riguarda, io ho già suonato musica del carnevale veneziano e ne è uscito anche uno dei miei lavori chiamati Futuro Antico, e quindi sono stato chiamato a celebrare anche il carnevale romano. Eseguiremo musica dal 4 al 600 con strumenti d'epoca, musica carnescialesca, nel momento in cui il carnevale a Roma era altrettanto importante di quello di Venezia e di Firenze. Beh, tradizionalmente sicuramente lo era, almeno nell'Ottocento era rinomato quanto, anzi forse... Io parlo di prima, io parlo dal 4 al 600. E un'altra cosa, quest'anno per esempio durante l'estate si è aperta Villa Medici, c'è stato un festival di musica barocca, lei vede un ritorno delle persone verso questo tipo di musica, del pubblico? Ma direi di sì, un ritorno che già da anni assistiamo, perché sono le radici della nostra musica. Ed essendo la musica occidentale, non lo dico io, in crisi, si va a vedere che cosa succedeva e se per caso prima e se per caso si stava meglio quando si stava peggio. Il Carnevale di Roma era caratterizzato dal fatto che il martedì grasso tutti quanti poi si riunivano a Via del Corso e spegnevano praticamente i moccoli, era il funerale del Carnevale per il mercoledì delle ceneri. Sono tradizioni che si sono perse o che si stanno recuperando? Ma io penso che vadano recuperate, temo però che siano andate perdute, si possono recuperare. Quanto conta in Italia il fatto che la cultura possa essere un polo di attrazione per il turismo? Conta tantissimo, cioè, voglio dire, siamo il paese dove c'è il 98% dei monumenti al mondo e voglio dire tutto ciò che può essere culturalmente sullo stesso piano è assolutamente auspicabile. Cartellone. Meglio aver perso le sue tracce, essermi smarrito tra mille facce. Ah, come potevo frenare il furore, l'imperiosa turbolenza del cuore? Fosse scoppiata l'ansia che mi divora, lui saprebbe quel che adesso ignora. Troppa rabbia, mi sarei sputtanato sperando via aver innamorato. Devo fermare la sua corsa a sapere perché da lei ha saputo ottenere. A questo punto è quasi mia moglie, si è ceduto, l'onore mi toglie, e se qualcosa è già accaduto mi seguirà la fama di Cornuto. E quello che abbiamo sentito è un brano della Scuola delle Mogli di Molière, versione italiana adattamento di Walter Malosti, al Teatro Gobetti di Torino fino al 7 febbraio. E proprio qui a Cartellone ci è venuto a trovare Walter Malosti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Molière è sempre un po' un autore che ci fa riflettere anche sulla nostra situazione attuale. La Scuola delle Mogli che cosa ci insegna? Ci insegna a smascherare l'ipocrisia? Ma forse sì, la cosa straordinaria di Molière è che riesce a essere in qualche modo urticante attraverso i secoli, cioè non smette di essere eversivo. La particolarità di questo testo è che è un testo che è un misto tra farsa e tragedia, e già questo insomma è abbastanza indicativo dei nostri tempi in cui viviamo, insomma, ma credo che forse smaschera in qualche modo dei meccanismi legati al potere e legati alle relazioni tra gli individui, insomma. Lui scrive con una lingua in originale meravigliosa, che è una lingua scintillante, scrive in alessandrini, tutta in rima baciata. La cosa curiosa è che una ventina d'anni fa i rapper francesi, per fare tra cui esempio il famosissimo MC Solar, ripresero questo stile praticamente cantando in alessandrino invece temi sociali, quindi in qualche modo ci sono diversi collegamenti che ci fanno appunto arrivare Molière fino a noi in maniera viva, intatta, insomma. Io ho cercato di fare una versione italiana anche appunto ricreandola sulla base appunto della lingua originale, quindi è tutta in rime ed è insomma, molto musicale, come avete sentito anche nel piccolo frammento, c'è un uso della musica quasi costante, una sorta di operina in musica, molto in qualche modo è un pastiche, nel senso che non c'è soltanto Verdi come avete sentito in questo caso, ma si parte da Dufay, si arriva fino a, passando per i Beatles, si arriva fino all'hip hop, insomma. Ecco, lei ha detto, Molière scrive in alessandrini, la mia commedia, la mia versione in italiano è in rima, ma è in rima baciata, è in rima alternata, insomma sì, è stata dura. È durissimo, è un lavoro di 6 mesi e poi appunto c'è stato poi tutto il lavoro di scena, perché queste parole poi vanno messe in qualche modo in carne, no? Attraverso gli attori, no? Attraverso il soffio poi della macchina degli attori, no? E quindi è stato un lavoro molto lungo, però siamo molto contenti, lo spettacolo ha già fatto quasi 2 mesi di tournée, è andato molto molto bene, in qualche modo è un Molière innovativo che però conserva la grande comunicazione e anche in qualche modo lo spirito, secondo me, feroce ma anche divertente dell'originale. Ecco, qual è il messaggio che Molière ci dà in quest'epoca un po' berlusconiana? Perché sappiamo che lui è molto favorevole alle donne, molto invece attacca molto le ipocrisie maschili della sua epoca. Ci si ritrova un pochino oggi? Beh sì, penso proprio di sì. Questo Arnaud, il protagonista, è un ricco originale. In questo originale possiamo metterci tante cose, insomma. È una sorta di piccolo dittatore che, appunto, tra le altre cose più efferate, insomma, comunque sceglie poi di prendersi questa bambina quando ha 4 anni, quindi se la cura, e quando ancora non è maggiorenne, ci sono un po' di collegamenti, come si vede, in qualche modo la cerca di concupirla, qui ovviamente di sposarla, ma la natura segue altri percorsi, e quindi questo Arnolf viene beffato. La cosa divertente è che il pubblico inizialmente in qualche modo vede questo personaggio come distante da sé, no? Arnolf. E la cosa che Molière, insomma, rende in qualche modo un gigante è che pian piano questo Arnolf diventa quasi uno specchio di chi sta guardando, in cui appunto ci si può riconoscere, e in cui, insomma, i difetti, i vizi, no? Le passioni risultano poi in qualche modo simili a quelle di chi sta guardando, insomma, questa parte. Cioè, insomma, che ci ricordano la nostra epoca. Allora, diciamo che sì. Dalla metà del 600 all'inizio del 2000 poco è cambiato. Teatro Gobetti di Torino fino al 7 febbraio. Walter Malossi con questa traduzione molto bella della Scuola delle Mogli. Abbiamo sentito rima baciata, rima alternata, comunque in rima. Poi proseguirete ad Arcidosso in Toscana. E come ci ha detto Walter Malossi, si passa da Verdi ai Beatles. E vediamo come viene tradotto for the benefit of Mr. Kite. Dato di rischiare per paura del fatto di restare troppo pericoloso, rischio e morte. E adesso andiamo a Londra. Michela Daghini. Ma non sei a Londra? No, ci sei venuta a visitare in Italia, e sei più che altro dove? Sono a Bologna, ad Arte Fiera, sono venuta perché questo è un evento di portata internazionale, mondiale, quindi valeva assolutamente la pena visitarlo, e volevo raccontarvi un po' cosa succede. Allora, da Londra sei venuta appositamente questo weekend a Bologna per visitare Arte Fiera alla Fiera di Bologna, e ci sono parecchi eventi che stanno accadendo durante questo weekend. È un weekend tutto dedicato all'arte. Michela, che cosa hai visto? Dunque, ci sono moltissimi espositori, ci sono 200 gallerie, una delle 3 fiere d'arte contemporanea più importanti al mondo, assieme ad Art Basel e alla FIAC di Parigi, e per 3 giorni Bologna si trasforma davvero in un vero e proprio laboratorio artistico, entra a pieno titolo nel cuore del dibattito culturale mondiale, possiamo dire. È un lungo fine settimana, come hai detto tu, sotto la direzione artistica di Silvia Evangelisti, chiama le più importanti gallerie d'arte per mettere in mostra le opere dei migliori rappresentanti, naturalmente, dei nomi più importanti dell'arte moderna e contemporanea, e poi si possono incontrare naturalmente esperti, curatori di musei, insomma addetti del settore, mercanti d'arte, collezionisti, appassionati, poi ci sono editori, librerie, istituzioni, tutti coloro che si muovono un po' in quest'ambito. C'è un programma fittissimo, ci sono 10 convegni al giorno, c'è un programma anche di iniziative collaterali, parallele, che animano la città, quindi la città davvero si trasforma, ci sono itinerari d'arte, quindi opere d'arte esposte in luoghi e in palazzi solitamente anche chiusi al pubblico, musica, poesia, cinema, letteratura, c'è anche una notte bianca. Ecco, e qui ti volevo. Allora, noi sappiamo che questa notte, no? Sabato 30 gennaio, questa notte, per chi si trovasse a passare dalle parti di Bologna, che insomma comunque non è una città così difficilmente raggiungibile, basta prendere un treno, c'è proprio la Notte Bianca di Bologna, e che accadranno degli eventi che tu andrai a vedere per noi. Eh sì, Elisabetta, naturalmente è la grande festa, questo è il grande evento che celebra l'arte qui a Bologna, un appuntamento atteso che piace molto, che riscuote grande successo, è ormai tradizionale, Art White Night, è questa grande festa che trasforma il centro storico della città in una grande vetrina dell'arte contemporanea, con apertura straordinaria di musei, gallerie, palazzi, negozi, fino a mezzanotte, locali e pubblici, anche palazzi privati. È un'unica grande mostra collettiva, possiamo dire, l'idea è un po' quella di creare un dialogo tra l'arte contemporanea e alcune location meno frequentate, inusuali del centro storico della città e anche dei dintorni, quindi fra antico e moderno, un vero e proprio palcoscenico, potremmo dire, dove vedere sperimentare opere d'arte contemporanea in ambienti diversi dai soliti luoghi dell'arte, insomma gallerie e musei. Ci sono installazioni, opere scelte per essere esposte in alcuni degli spazi più significativi della città e l'obiettivo è quello di attirare l'attenzione su questi luoghi. Le sedi sono diverse, c'è Palazzo Renzo, Palazzo del Podestà, il Museo della Sanità e dell'Assistenza, l'Archiginnasio, il Museo Archeologico, insomma varie situazioni. Per la prima volta Bologna ospita questi lavori site specific, sono proprio creati, pensati esclusivamente per il sito in cui verranno collocati e dove li possiamo vedere. Il tutto poi diventa anche interattivo, c'è il supporto digitale di una mappa su Google Maps nella quale sono indicati come punti di interesse tutte le sedi espositive con contenuti sull'artista e le opere e dal 15 gennaio ogni visitatore potrà attraverso un vero e proprio geoblog commentare le opere e gli artisti. C'è sempre un aspetto interattivo in questa manifestazione. Ma a proposito di aspetto interattivo, è vero che ci sono anche però degli artisti ben conosciuti che erano molto poco interattivi nel passato, ma erano insomma dei poeti, dei cantautori magari. È vero, sono degli esperti della parola, perché uno è un funambolo della parola ed è Alessandro Bergonzoni, che però si è avvicinato all'arte da tempo, un appassionato, un collezionista, e l'altro è Francesco Guccini, beh, insomma non ha bisogno di presentazioni, e loro ci saranno questa sera in questa notte bianca. Ci sono due appuntamenti in particolare che segnalerei, c'è questa sera alle 7 o alle 19 una performance di Bergonzoni, si parla di una performance di arte e poesia visiva, dunque non si può descrivere, non so dirvi molto di più, penso sia assolutamente da vedere, mentre domani alle 18 si terrà un incontro che ha per titolo La parola di San Tommaso ed è una conversazione su San Tommaso d'Aquino con Filippo Daverio, padre Paolo Garuti e gli allievi, tra virgolette, Alessandro Bergonzoni, Stefano Bonaga e Luigi Gerli. In questa occasione si potrà vedere anche una nuova opera di Claudio Parmigiani che è un monumentale affresco dipinto col fuoco dal nero fumo nei tre grandi riquadri del coro absidale a San Giorgio in Poggiale. E sempre questa sera alle 21 nella chiesa di Santa Cristina, un contesto storico artistico quindi di grande suggestione che risale alla metà del XIII secolo, c'è un incontro che ha per titolo A proposito di Sandro Luporini, che era, come sappiamo, l'autore, il paroliere, la seconda anima di Giorgio Gaber, e c'è una conversazione sulla parola e il suono tra Filippo e Christophe Daverio con Nicola Bellinazzo, Alessandro Bergonzoni, Francesco Guccini, Pia Tuccito, con l'intervento dei cantori della scuola di canto gregoriano Benedetto XVI, quindi si può immaginare la situazione davvero originale, il contesto curioso in cui poter incontrare questi due nomi a cui tu facevi riferimento. Michela, allora grazie infinite per il tuo reportage questa volta da Bologna e ringraziamo quindi la nostra Michela Daghini e vi invitiamo assolutamente ad andare alla Notte Bianca di Bologna all'interno di Arte Fiera fino a domani, domenica. Buon divertimento. Grazie Elisabetta, grazie a tutti. Cartellone. Milano celebra Roy Lichtenstein, uno dei fondatori della pop art, con una mostra evento che raccoglie oltre 100 opere tra quadri e sculture. Meditations on Art, ovvero Meditazioni sull'arte, è il titolo dell'esposizione allestita alla Triennale che si concluderà il 30 maggio per trasferirsi poi al Ludwig Museum di Colonia. Il curatore Gianni Mercurio al microfono della nostra Adriana Fracchia. Ricordo quando conobbi Lichtenstein del 1988 a Roma, una frase che mi disse e che un po' ha ispirato alla fine questo progetto. Cioè lui disse, con un po' di amarezza anche, la gran parte del pubblico mi conosce per i fumetti e i puntini, in realtà io ho fatto molto altre cose, insomma questa gente evidentemente non ha un senso profondo, una grande curiosità per l'arte. Ed ecco che ho pensato di mostrare proprio questa attività ultradecennale che è stata incentrata soprattutto ad una rimeditazione sulla storia dell'arte del Novecento, cioè l'arte come percezione visiva. E quindi Lichtenstein si dedica a ridipingere opere di Picasso, di Mondrian, dei vari movimenti o generi come il paesaggio, la natura morta, anche il futurismo, desumendo queste immagini dalle riproduzioni di scarsa qualità che fanno sì che noi conosciamo la storia dell'arte, cioè noi conosciamo la storia dell'arte attraverso i libri e non attraverso la visione diretta delle opere. Quindi conosciamo la storia dell'arte attraverso dei cliché, il cliché di Picasso, il cliché di Mondrian, e Roy Lichtenstein attraverso questa operazione di citazionismo, di riappropriazione, ridà dignità di opera d'arte a delle opere che invece sono state degenerate un po' attraverso una diffusione, che quindi hanno perso la loro aura. Quindi la mostra è divisa in queste sezioni e la cosa straordinaria è che molte di queste opere non sono conosciute, appunto, come per esempio le opere degli anni 50 che sono mostrate per la prima volta. E un aspetto abbastanza spettacolare è che molte di queste opere sono di formato gigante e quindi particolarmente così seduttive. Lichtenstein, più che pop, era postmoderno, è d'accordo con questa interpretazione? In parte sì, in parte no, cioè secondo me Lichtenstein non era un postmoderno, ma ha sorprendentemente profetizzato negli anni 60, quindi quasi 20 anni prima che il movimento postmoderno si affermasse, questo aspetto particolare che è appunto la citazione, l'appropriazione. Poi ci sono stati artisti che hanno hanno aderito evidentemente a questo movimento, come non so, da Cindy Sherman, anche lo stesso Jeff Koons, no? Artisti molto importanti contemporanei. In realtà più che un postmoderno è un anticipatore di certi stilemi postmodernisti, ma la differenza sostanziale è che il postmoderno guarda al passato, mentre Lichtenstein guarda al futuro, e possiamo renderci conto di quanto oggi, a 40 anni di distanza dall'inizio della sua attività, ancora oggi Roy Lichtenstein, con i suoi colori e le sue tecniche, il suo linguaggio, i puntini, le strisce, eccetera, ha invaso e pervaso la cultura visiva contemporanea, dall'arte al cinema alla fotografia, un po' quello che è successo anche con l'altro grande artista della pop, che è stato Andy Warhol. Noi ringraziamo sempre Giacomo Puccini per aver scritto questa bellissima opera che è Madama Butterfly, e ci occupiamo di opera ma anche per capire di più, perché molto spesso ci sono i melomani, che sono quelli appassionati, e poi c'è il resto della popolazione in cui noi mestamente ci riconosciamo, anche se poi l'amiamo l'opera, e che non capisce molto l'opera o magari non la conosce abbastanza. Allora, per saperne di più, parliamo con Luca Aversano, docente di storia del melodramma DAMS Università di Roma, perché con il Teatro dell'Opera fino al 18 maggio ci sono 5 conferenze divulgative al Teatro dell'Opera di Roma per spiegare le opere. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, si tratta di un'iniziativa che è ormai giunta alla terza edizione, una serie di 5 incontri a cui intervengono musicologi e musicisti, a presentare appunto i titoli di stagione al Teatro dell'Opera, istituzione con la quale ovviamente si collabora per la realizzazione della rassegna. E intervengono tra il pubblico, diciamo, quasi totalmente studenti del liceo e per una parte minore anche studenti dell'università. È un'iniziativa importante perché permette ai ragazzi delle scuole di conoscere la nostra grande tradizione lirica, che purtroppo viene estromessa dai programmi ministeriali. Sappiamo tutti che nei licei la musica non è materia curricolare, quindi ecco, ci inseriamo un po' in questa lacuna del sapere per cercare di colmarla, diciamo. Quindi l'appuntamento è praticamente dalle 10 alle 13, quindi una vera e propria lezione, una vera e propria lezione. In vari appuntamenti, mercoledì 17 marzo, giovedì 8 aprile, al Teatro dell'Opera di Roma, in cui si spiega che cosa? Si spiega come è strutturata l'opera stessa? Sì, ovviamente si spiega come è strutturata l'opera stessa, ma in questo caso la segna appunto si intitola L'opera con filosofia, proprio perché si cerca di collegare i discorsi di carattere musicale con i temi letterari, artistici, estetici, filosofici, che sono invece oggetto di studio da parte dei ragazzi, quindi una cosa un po' più interdisciplinare, come si dice solitamente. Per anche l'intervento spesso degli artisti, qualcuno degli artisti che viene a parlare con i ragazzi, qualche cantante o scenografo, regista interviene alla conferenza e discute con loro dello spettacolo che ha realizzato. Quindi diciamo che questa è un'iniziativa veramente in cui l'affluenza degli studenti è molto molto numerosa, si parla di 1.000-1.500 studenti anche per volta, quindi è vera e propria uno spettacolo sullo spettacolo, diciamo così. Allora speriamo che le altre città d'Italia imitino il Teatro dell'Opera di Roma, ma sono sicura che anche alla Scala fanno delle iniziative simili per valorizzare quello che è il patrimonio della nostra cultura, l'opera lirica italiana. Grazie infinita a Luca Aversano, ricordiamo fino al 18 maggio al Teatro dell'Opera di Roma, all'Università Roma 3, l'opera con filosofia. Insomma, un modo per conoscere le grandi, grandi opere liriche. E sempre parlando di grande lirica da guardare, ascoltare e leggere, con Il Sole 24 Ore, il meglio della lirica mondiale per la prima volta in DVD e CD. Da martedì 26 gennaio, quindi da questo martedì, è partita questa iniziativa del nostro gruppo editoriale e in edicola con Il Sole 24 Ore trovate La Traviata. Poi ci sarà La Carmen, Madama Butterfly, La Ida, Le Nozze di Figaro, Il Barbiere di Siviglia, insomma, per finire con Alcina. Un appuntamento settimanale con tutte le grandi opere, con Il Sole 24 Ore da martedì scorso in edicola La Traviata. E adesso andiamo a Parma, dove martedì 2 febbraio si festeggia l'apertura un anno fa della biblioteca Ilaria Alpi. Alle ore 21 ci sarà uno spettacolo con il nostro Daniele Biacchessi, Passione Reporter. Ore 21, Parma, Daniele Biacchessi. E per oggi è tutto, io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione, vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Una buona giornata e un buon weekend a tutti, da Elisabetta Fiorito.